Recita la dichiarazione dei principi della goliardia, sottoscritta a Venezia nel 1946. Goliardia è cultura ed intelligenza. È amore per la libertà e conoscenza delle proprie responsabilità sociali davanti alla scuola d'oggi e alla professione di domani. È culto dello spirito che genera un particolare modo di intendere la vita alla luce di un'assoluta libertà di critica, senza alcun pregiudizio di fronte ad uomini ed istituti. È infine culto delle antichissime tradizioni che portano nel mondo il nome delle nostre università di scolari. A Bologna il simbolo della goliardia è indiscutibilmente il fittone. Fittone è una parola che, a dispetto del significato in botanica, l'asse principale della radice di una pianta, nella città delle torri identifica fin dal Medioevo quei comuni pilastrini di pietra posti a fianco delle colonne dei portici per salvaguardarle dalle ruote dei carri o a bloccare l'ingresso ai mezzi delle vie troppo strette. Uno di questi fittoni, di pregiata fattura in pietra d'Istria, dalla forma agile, slanciata, leggermente allargato nella punta arrotondata, si trovava all'ingresso di un vicolo del centro, quella via Spaderie che in passato era ritrovo abituale degli studenti, ma che fu cancellata dalla toponomastica cittadina nel 1912, in occasione dell'allargamento di via Rizzoli. Come conseguenza, il fittone venne rimosso dalla sua sede originaria, ma di certo non nell'indifferenza generale. Infatti, gli studenti gli erano così affezionati che si spinsero a una vera e propria rivolta, arrivando a occupare il municipio. Così, il 13 maggio dello stesso anno, con una cerimonia in pompa magna alla presenza delle associazioni studentesche, tutte bardate e con tanto di banda e di bandiere araldiche sventolanti tra i portici, il fittone di via Spaderie venne traslato in via Zamboni, sotto il portico della sede del rettorato di Palazzo Poggi. Sulla strada, in corrispondenza della sua posizione originale, venne posta una lapide commemorativa, proprio come se si fosse trattato di un autentico monumento. Una curiosità. La scomparsa di via Spaderie comportò anche la chiusura di una celebre tabaccheria all'angolo, che offriva ai suoi clienti un particolare servizio. Era infatti presente all'interno del negozio un tubicino di gomma collegato alla presa del gas, da cui scaturiva una fiammella con la quale ci si poteva accendere il sigaro senza bisogno di fiammiferi. Da quel giorno, gli ordini goliardici iniziarono a contare gli anni a partire dalla fatidica data di traslazione del fittone. Il 1913 divenne così anno primo a fittone traslato, e così via, in tutti i papiri, ovvero i documenti ufficiali di una balla, accanto alla data di stesura. Venne immaginato persino un riferimento al venerato paracarro all'interno della Divina Commedia, quando Dante trova una scritta sulla porta dell'inferno che recita: «Dinanzi a me non fuor cose create, se non eterne, e io eterno duro». Proprio quell'eterno duro dantesco, espresso in latino per risultare più solenne, è il motto che da sempre accompagna i goliardi bolognesi, affettuosamente riferito al celebratissimo fittone, non senza un velato riferimento all'organo sessuale maschile. Naturalmente le vicissitudini del più celebre fittone bolognese non finiscono qui. Per via del suo ormai consolidato valore storico per l'Università Felsinea, fu restaurato nel 1931. Ma a causa del suo forte collegamento con le balle goliardiche bolognesi, è stato più volte preso di mira da parte degli appartenenti alle confraternite straniere, ovvero quelle delle altre città, quelle toscane, in primis, con le quali la rivalità è sempre stata accesa. Fu così che a partire dagli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale si verificarono svariati tentativi di impadronirsi del fittone da parte degli ordini goliardici antagonisti. Si trattò di veri e propri atti vandalici, quindi non possono essere considerati burle goliardiche. L'ordinamento goliardico, infatti, non è tollerante nei confronti di qualsiasi forma di violenza, nemmeno se è rivolta verso un monumento. La prima volta gli venne lanciata contro un'automobile, nella speranza di sradicarlo per portarlo via, con il solo risultato di spezzarlo in due. Fu quindi necessario restaurarlo nuovamente, questa volta inserendo un perno di ferro per rimettere al suo posto la parte superiore. Dopo un altro tentativo di rapimento, si decise di rivestirlo con una gabbia di metallo. Naturalmente questo non bastò a fermare gli studenti delle facoltà straniere, che tentarono in più occasioni di segare la gabbia. Il primo tentativo si rivelò un insuccesso, ma la seconda volta i vandali finirono per fare a pezzi il fittone. Siccome si tratta sostanzialmente di un monumento storico per l'istituzione universitaria, il rettorato si mosse per recuperarlo e nuovamente vennero intraprese delle operazioni di restauro. Infine venne collocato all'interno di Palazzo Poggi. Al suo posto, sotto al porticato, venne posizionata una nuova lapide che ne testimoniava la rimozione. Non ci fu tuttavia pace nemmeno per la lapide, che venne rimossa da ignoti durante i moti studenteschi del 68, i quali nutrivano un certo risentimento per i movimenti goliardici, considerati troppo dediti agli svaghi e non abbastanza impegnati politicamente. Questa fama, poco lusinghiera per l'epoca di grandi sconvolgimenti culturali per i movimenti studenteschi, portò addirittura a una progressiva estinzione degli ordini goliardici. Una lenta e graduale ripresa della tradizione goliardica avvenne a partire dagli anni 70, con la nascita di nuove balle e la riformazione di quelle storiche. Poi, in occasione delle celebrazioni per il nono centenario dell'istituzione universitaria bolognese, gli appartenenti allo storico e riformato Sacro Venerabile Ordine del Fittone si occuparono di collocare una copia dell'antico simbolo studentesco di fronte a Palazzo Poggi. Questa, per sommi capi, la storia di uno dei simboli più venerati da parte della goliardia bolognese. Come nota in calce, vale la pena ricordare che sono stati membri di questi ordini alcune delle personalità più illustri e insospettabili dell'Ateneo bolognese, compreso un ex rettore. La condizione di goliardo, insomma, va di pari passo con quella di studente, che si può permettere di lasciarsi andare a qualche dissolutezza prima di entrare a pieno titolo e con un proprio ruolo nella società. Un papa goliardo.